Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Spero che l'intelligenza, bene o male, soprattutto di quelli che hanno maggiormente beneficiato dell'Unione Europea, che non siamo stati noi italiani, sono stati altri. Spero che l'intelligenza di queste persone alla fine, diciamo, dopo magari dei negoziati molto complessi, alla fine insomma, faccia ragionare tutti. Se così non sarà, vorrà dire che non avevamo così torto, ma spero invece di aver avuto torto. E allora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, speriamo che Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia, abbia torto, nel senso che dice che ha poca fiducia nel fatto che i paesi che stanno facendo questo negoziato a oltranza da 4 giorni a Bruxelles per gli aiuti europei ai paesi più colpiti dal Covid, dice poco fiducioso, insomma, che ragionino, che alla fine arrivino a un'intesa, anche se bisogna dire che poco fa man mano sono arrivate varie indiscrezioni che sembra facciano effettivamente così sperare in un cauto ottimismo, come ha detto oggi il Presidente del Consiglio Conte, che si è detto appunto cautamente ottimista. Questa cautela è sempre d'obbligo, anche perché sicuramente rispetto alle aspettative iniziali ci sarà qualcosa di meno, però dopo 4 giorni di questa maratona infinita pare insomma che piano piano si possa arrivare a una mediazione. Ne parleremo naturalmente, tema principale di oggi, così però come parleremo anche di molte altre cose, come sempre in questa ultima settimana, vi ricordo, di questa stagione di Effetto Notte, e vi saluterò poi venerdì, poi ci sarà Effetto Notte Estate in un orario diverso, dalle 18.30 alle 20.30 con altri colleghi. Ma vi dicevo, fra i vari temi torneremo sul ponte di Genova, metaforicamente, nel senso come argomento, perché in questi giorni si stanno facendo dei forti collaudi, perché dovrebbe essere consegnato tra l'1 e il 5 agosto, e ci sono anche delle polemiche, lo saprete già, che si trascinano dal fine settimana sul fatto che ci sono, forse sono stati fatti degli errori, ci sono delle curve un po' troppo strette, per cui si dovrà ridurre la velocità dai 90 km orari del Ponte Morandi ai 70. Insomma, ne parleremo con il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Quindi non pongo altro tempo in mezzo, passo subito tra poco alla sintesi della giornata e poi agli approfondimenti, come sempre, con gli ospiti. Per i vostri messaggi, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure WhatsApp al 349 238 6666, poi c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure Roby con la Y linetta bassa Giordano. La lunga trattativa sugli aiuti europei per il Recovery Fund all'Italia, si ipotizzano 209 miliardi di cui 82 di sussidi. I dati sul coronavirus: nel nostro paese i contagi sono in calo, più 190 nelle ultime 24 ore, i morti sono 13, oltre 63.000 nuovi contagi invece negli Stati Uniti, e intanto sono buone al momento le risposte del vaccino messo a punto in collaborazione tra Italia e Oxford, si tratta di risultati preliminari. Genova, il nuovo ponte sarà inaugurato fra il 1 e il 5 agosto, e il sindaco Bucci sulle polemiche dice: è falso che il viadotto sia fuori norma. A Effetto Notte ospite il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Riduzione in schiavitù e reati sessuali, smantellata una setta che adescava anche minori. Cinema, Leone d'Oro alla carriera per la regista Ann Hui e l'attrice Tilda Swinton. Calcio, per la Serie A maschile, sfida questa sera alle 21.45 Juventus-Lazio. Partiamo quindi dal vertice a oltranza che si sta tenendo da 4 giorni a Bruxelles sugli aiuti europei ai paesi più colpiti dal Covid. Se tutto andrà come si spera, nelle prossime ore si potrà trovare finalmente, dopo 4 giorni ininterrotti di trattativa, un accordo a Bruxelles sul Recovery Fund e sul nuovo bilancio europeo. Alla fine i 4 paesi frugali guidati dall'Olanda hanno ceduto in cambio di un sostanzioso sconto sui contributi al bilancio, i cosiddetti rebates, ma hanno ottenuto che la quota dei crediti fosse superiore a quella delle sovvenzioni a fondo perduto. È toccato al presidente del Consiglio UE, Charles Michel, fare l'ultima proposta. I 750 miliardi del fondo verranno confermati, ma le sovvenzioni da 500 miliardi scenderanno a 390, mentre i crediti saliranno da 250 a 360 miliardi. Per l'Italia si tratta di un aumento della quota dei crediti da 88 iniziali a 127, ma una riduzione delle sovvenzioni a fondo perduto da 85 a 81 miliardi. Il prefinanziamento sarà versato nel 2021 e dovrebbe essere del 10%. Quanto al bilancio europeo 2021-2027, nella nuova proposta messa sul tavolo dal presidente Charles Michel resta a 1.074 miliardi. Aumentano i rebate per Danimarca, Germania, Olanda, Austria e Svezia. Alla Danimarca andranno 322 milioni annui di rimborsi, alla Germania 3,671 miliardi, all'Olanda quasi 2 miliardi, all'Austria 565 milioni e alla Svezia poco più di un miliardo. Ma adesso, alle battute finali, si dovrà vedere se tutte queste cifre verranno confermate. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E questo, se verranno confermate queste cifre, cercheremo di scoprirlo, vi dicevo, tra poco, perché torneremo a parlarne. Ora i dati sul coronavirus in Italia: cala il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore nel nostro paese. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 190 a fronte dei 219 di ieri. Le nuove vittime sono invece 13, per un numero complessivo dall'inizio della pandemia in Italia di 35.058 decessi. I casi totali invece di contagi salgono a 244.624. Gli attualmente positivi sono 12.404, i guariti 197.162. Va sottolineato che per la prima volta dall'inizio della pandemia ieri si sono registrati solo 3 decessi in un giorno per coronavirus in Italia, nessuno in Lombardia. E intanto il ministro della Salute Speranza, poco fa al TG5, ha detto che il rischio di nuove chiusure c'è, perché il rischio zero purtroppo non esiste. Il rischio c'è perché il rischio zero purtroppo non esiste. In questi mesi gli italiani sono stati straordinari, hanno avuto comportamenti molto corretti. Dobbiamo continuare su questa strada. Se dovessimo renderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuni ambiti, in alcune aree, in alcune città, lo faremo senza tentennamenti. E adesso parliamo invece, per quanto riguarda il coronavirus nel mondo, della situazione grave in molte altre parti del globo. Quasi 80.000 i decessi totali in Brasile, negli Stati Uniti quasi 63.900 nuovi casi in 24 ore. La pandemia continua a infuriare negli Stati Uniti con 70.000 nuovi casi al giorno e decessi e ricoveri in aumento, una nuova emergenza che vede ora Congresso e Casa Bianca cercare un accordo per un nuovo piano d'aiuti d'emergenza. Donald Trump e il suo segretario al tesoro Steven Mnuchin incontrano oggi i leader repubblicani per cercare di superare una polemica dentro il partito. L'ala parlamentare vuole inserire miliardi di dollari per potenziare programmi di testing e tracing e le agenzie sanitarie federali impegnate contro il virus. La Casa Bianca finora si oppone. Occorreranno poi negoziati a Capitol Hill tra repubblicani e democratici per varare un autentico compromesso, con i conservatori che paiono intenzionati a offrire un piano da 1.000 miliardi, mentre i democratici sostengono una più ampia proposta da oltre 3.000 miliardi. I repubblicani vorrebbero in particolare limitare nuovi straordinari assegni di disoccupazione in scadenza a fine mese e il sostegno al reddito, e vorrebbero introdurre maggiori protezioni legali per le aziende. In gioco sono anche aiuti a stati e località. La corsa al vaccino contro il virus intanto offre nuove speranze per il futuro, pur se tra molte incertezze. Due prototipi, uno sviluppato dall'Università di Oxford in partnership con AstraZeneca e l'altro dalla società cinese CanSino, hanno evidenziato risposte immunitarie e sono apparsi sicuri per i pazienti in studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Passiamo a un altro argomento: il nuovo ponte di Genova, 2 settimane per la consegna e l'inaugurazione, quindi il nuovo viadotto va verso l'ultimazione. Anche oggi sul nuovo ponte il movimento lento dei tir, con il loro carico di ghiaia, è andato avanti per ore. Un via vai regolare lungo i 1067 metri del tracciato, con le frenate e le soste dei mezzi pesanti all'altezza dei punti di misurazione. Domani e dopodomani si replica, poi l'operazione dovrebbe terminare, significa che il giorno dell'inaugurazione si avvicina. Il sindaco e commissario straordinario Bucci dice che sarà i primi giorni di agosto. Stiamo parlando con la Presidenza della Repubblica per sapere quando sarà il giorno migliore, parliamo dall'1 al 5. Le cose stanno andando bene, quindi voglio dire, per adesso nessun ostacolo negativo. Intanto sulle autostrade liguri ancora giorni difficili, anche se oggi non c'è stato l'ingorgo delle scorse settimane. Secondo il comitato Salviamo Genova e la Liguria, che riunisce le categorie economiche e produttive del territorio, la viabilità in tilt è costata 1 miliardo al mese, colpiti tutti i settori a partire dal porto e dal turismo. Domani a Genova manifestazione in concomitanza con la visita della ministra De Micheli. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ne parleremo del ponte di Genova con il presidente della Liguria, Giovanni Toti, che sarà in collegamento, dovremo raggiungerlo più tardi nel corso di questa puntata. Commercialisti contro il governo sul no alle proroghe sugli adempimenti fiscali. Alimenta nuove polemiche il no del governo alla proroga di parte delle scadenze fiscali accumulate negli ultimi giorni di luglio, dopo quello dei commercialisti a lanciare un allarme anche Confcommercio. Non rinviarle a fine settembre è un errore per due motivi, dice il presidente dell'associazione Sangalli. Peggiora la situazione del sistema imprenditoriale già in grave difficoltà per la crisi e alza il rischio chiusura delle imprese con un impatto negativo sui conti pubblici ben maggiore rispetto a quello della proroga. A cavalcare la protesta contro il Tax Day è anche il centrodestra. Il Tesoro respinge però le critiche. Con un rinvio a settembre si sarebbe rischiato un grande ingorgo fiscale, sottolinea il viceministro all'economia Misiani, ospite di 24 Mattino. A settembre abbiamo rinviato i versamenti di marzo, aprile e maggio. Ci sono tante scadenze. Noi dobbiamo rimettere ordine. Lo faremo con la riforma organica del fisco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oltre 9.300 visitatori agli Uffizi di Firenze lo scorso fine settimana, con un più 27% di giovani rispetto al precedente fine settimana, e museo trend topic, quindi che è sempre in testa su Instagram e Twitter per la galleria. E questo è l'effetto causato dalla visita dell'imprenditrice Chiara Ferragni, pubblicata sui social. Il direttore delle gallerie degli Uffizi Schmidt ha spiegato che, oltre al dato della crescita generale, annotiamo, dice, con immenso piacere un vero e proprio boom di giovani in museo. E sulle polemiche legate alla presenza della influencer nel museo, Schmidt ha detto: in questo fine settimana abbiamo visto, letto e sentito un sacco di tuttologi che ci hanno insegnato di tutto e di più. Alla luce di questi numeri posso solo dire che mi dispiace per loro. La cronaca adesso, adolescenti ma anche bambine. Una setta che attirava giovani donne per controllarle è stata smantellata a Novara. Noi siamo intervenuti perché abbiamo avuto la chiara certezza, anche per le denunce delle ragazze coinvolte, che potessero coinvolgere anche dei minori. Anche adolescenti, per non dire bambine, nella setta operante da 30 anni, scoperta grazie al lavoro della squadra mobile di Novara, di cui abbiamo sentito la dirigente Valeria Dulbecco. Con base operativa nel novarese, di Ramazzoni a Milano e nella provincia di Pavia, la psicosetta era capeggiata da un ormai 77enne, unico maschio e capo assoluto, che grazie a delle collaboratrici, anche psicologhe, vere e proprie aguzzine, attirava nella rete giovani donne. Donne tutte abbienti, con fragilità psicologiche, per poi non lasciarle più andare. Le giovani, le cui famiglie spesso dovevano pagare, subivano violenze e abusi sessuali, anche molto dolorosi, accettandoli come pratiche magiche. Il capo trovava loro lavoro presso complici, in particolare due scuole di musica, un'erboristeria e anche una casa editrice, controllandole così completamente. A svelare la truffa, una delle bestie, come si chiamavano tra loro le adepte, che è uscita a fatica dall'organizzazione, ha denunciato. Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minore, le ipotesi di accusa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di incidenti sul lavoro. Sono morti due operai precipitati in un cantiere edile a Roma. Si tratta di due italiani di 29 e 52 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra che stessero tagliando una trave quando sono caduti da un'altezza di oltre 20 metri. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. E un operaio di 54 anni di una ditta a Cairo Montenotte, rimasto schiacciato da un peso mentre era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell'area Tirreno Power di Savona. L'uomo, insieme a colleghi che hanno poi lanciato l'allarme, stava effettuando la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti che non era in funzione quando è stato colpito al torace. L'urto è stato violento e fatale. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e gli ispettori del lavoro. Uno dei possibili effetti collaterali, diciamo così, del lockdown in tutto il mondo è la nascita di molti meno neonati prematuri rispetto alla norma. Lo affermano, riporta il New York Times, studi condotti in diversi paesi secondo cui il fenomeno potrebbe essere dovuto a vari fattori, per esempio quello del riposo. Le donne hanno avuto meno stress da lavoro, hanno dormito di più, hanno ricevuto più supporto dalla famiglia. Inoltre, stando a casa, le gestanti hanno evitato in generale le infezioni, non solo quelle da coronavirus, ed è noto che alcuni virus possono aumentare il rischio di parto prematuro. Anche l'inquinamento atmosferico, che è stato legato ad alcuni casi di parti pretermine, è diminuito durante il lockdown. Notizie dal cinema sono stati attribuiti alla regista Ann Hui, una delle più affermate registe del continente asiatico, e a un'attrice iconica, la britannica Tilda Swinton, i Leoni d'Oro alla carriera della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si dovrebbe tenere dal 2 al 12 settembre 2020. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. Per chiudere lo sport col calcio maschile, Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato, lo fa sapere la rivista France Football, che lo assegna ogni anno tramite votazione, spiegando che la decisione è stata presa a causa di una stagione troppo condizionata, non in positivo, dalla pandemia. E poi, sempre per la calcio maschile, Serie A maschile, alle 21.45 in campo Juventus-Lazio. Bene, direi che con questa notizia di sport si chiude questa sintesi della giornata, così tra poco possiamo avventurarci, addentrarci dentro alcuni temi principali con gli ospiti. C'è la viabilità adesso. Per i vostri messaggi vi ricordo 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. C'è per esempio un ascoltatore che scrive: beh, ottenere piangendo e inginocchiandosi davanti a tutto il mondo solo la metà del nulla è abbastanza patetico. Questo punto di vista di Gabriele, ma mi sembra che qualcosa si stia ottenendo in sede europea, e ci aggiorniamo tra pochissimo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, e adesso gli ospiti per approfondire alcune delle notizie principali. Inizieremo naturalmente da quello che sta succedendo da molte ore, da molti giorni in sede europea, e già ci sono diversi messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, i vostri commenti, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, piuttosto critici. Prima, appunto, secondo Gabriele è l'elemosina che ci si inginocchia davanti al mondo senza ottenere nulla. Claudio dice: da 750 miliardi a poco più della metà, canta storie col piattino in mano. E poi invece un altro ascoltatore che dice: le differenze, trovare le differenze con quello che ottiene in Italia. Stati Uniti 2000 miliardi subito, Giappone 1000 miliardi subito, l'Unione Europea dice 100 miliardi l'anno per 7 anni. Ma adesso addentriamoci per l'appunto in questa faccenda. Questa notte abbiamo lavorato sino all'alba, direi che c'è stata una svolta. Dobbiamo essere ancora cauti, perché sino alla fine, sino a quando non, diciamo, c'è la stretta finale, non valutiamo tutti gli aggiornamenti delle varie poste contabili, dobbiamo essere cauti. Però direi che sono cautamente ottimista. E meno male che il Presidente del Consiglio Conte è cautamente ottimista, perché dopo un vertice europeo che a questo punto si può veramente considerare una maratona negoziale a oltranza, se considerate che sono 4 giorni che vanno avanti i leader europei a cercare di trattare con questo braccio di ferro. So che, diciamo, è un'espressione trita e ritrita, logorata, braccio di ferro, ma è proprio quello che sta succedendo da lungo tempo, in particolare in questi 4 giorni, tra stati come l'Italia in testa, ma anche la Francia, la Spagna, eppure la Germania che cerca di mediare, e dall'altra parte i paesi cosiddetti frugali che continuano a tirare, i cosiddetti rigoristi, che sono Finlandia, Svezia, Austria, Olanda, Danimarca, che si impuntano su alcuni aspetti in particolare: ridurre i fondi, i sussidi a fondo perduto, per invece aumentare i prestiti, quindi quelli che poi dopo devono essere restituiti, e poi la volontà di poter controllare di volta in volta come ogni Stato a cui vengono dati questi aiuti spende questi soldi. Quindi dicevo, sono 4 giorni che prosegue quella che può essere definita una trattativa storica, ancora prima di sapere quali sono i risultati, perché sia per i frangenti cruciali in cui avviene, sia per la posta in gioco, potrebbe entrare forse nel Guinness dei primati. Ne parlo con il nostro Sergio Nava. Caro Sergio. Sì, ciao Roberta. Sì, fra tre ore, anzi meno di tre ore, scusate, 2 ore e 40 minuti entrerà nel Guinness dei primati. Entra quindi di diritto questa. Sì, perché il record precedente è del dicembre 2000, vertice di Nizza, 85 ore, e le 85 ore saranno superate a mezzanotte, per cui... Quindi basta resistere ancora un po', resistiamo, per i leader europei e via, almeno portano a casa il Guinness dei primati come lunghezza di trattative, veramente 4 giorni, che dovevano essere 2, perché si diceva il vertice del 17-18 luglio, invece poi appunto sta andando avanti da venerdì. Anzi, c'erano Conte e Macron, se non sbaglio, presidente francese, che erano arrivati a Bruxelles addirittura da giovedì, quindi cioè, tra poco mettono le tende e restano direttamente. Sergio, però, al di là di tutto, come sta andando questa trattativa infinita? È vero che si può essere cautamente ottimisti? È vero, è anche vero che insomma c'è l'impressione che non sia finita ancora qui, probabilmente si dovrà trattare ancora un po', e per questo dicevo che si rischia seriamente di andare ancora una volta alla notte. E anche a questo punto però abbastanza improbabile che si sfoci, che si prosegua ancora per tutta la giornata di domani. È probabile che questa notte veramente debba in qualche modo portare consiglio, perché è arrivata una proposta di 66 pagine che è già stata insomma resa nota del presidente europeo Michel, che prova a far quadrare il cerchio. È ovviamente molto complessa, sono 66 pagine, ma cerchiamo di dare gli elementi fondamentali. Innanzitutto, il Recovery Fund resta a 750 miliardi di euro, contrariamente alle attese, quindi non viene tagliato. Mm-hmm. 390 sono in sovvenzioni a fondo perduto, quindi si è un po' arrivati a cercare di far contenti tutti, scendere solo 10 miliardi sotto la linea rossa dei Mediterranei, però mettere quel 3 davanti alla cifra che fa contenti invece i frugali, che volevano appunto scendere sotto i 400 miliardi. Il bilancio europeo settennale resta intorno a 1.074 miliardi. Ci sono novità interessanti per l'Italia, perché allora le stime che circolano, ma sono stime che fino a poco fa non erano ancora state confermate dalle fonti di Palazzo Chigi, quindi prendiamole con le molle, parlano di 209 miliardi, sì, di cui 82 di sussidi, no, Sergio? E 127 di prestiti, quindi sarebbe anche di più di quei 172 circa che circolavano dopo la proposta della Commissione. Infatti farei sentire Conte, che aveva detto sempre in queste ore: mi batterò per risorse cospicue. Ha detto cospicue, sentiamo. C'è un quadro, diciamo, di macro negoziato sul quale ovviamente si tratta di rompere alcune resistenze e superare alcune perplessità che a questo punto sono inaccettabili. Poi c'è un negoziato micro, cioè che riguarda le singole poste. E questa forse è una partita non meno importante sicuramente, soprattutto per il singolo paese e per l'Italia. Diciamo che mi sto battendo duramente, anche qui non mollo affatto, sul fatto che ovviamente alla fine quelle che saranno le risorse finanziarie a disposizione dell'Italia siano cospicue e non ci sia una compromissione, diciamo, del quadro totale delle risorse, perché è questo che ci consentirà una pronta ripresa. E infatti ci serve per la pronta ripresa. Silvia da Roma dice: Roberta cara, Sergio caro, queste estenuanti trattative europee sono insopportabili, i cittadini vogliono vedere cosa diamine verrà deciso, ma speriamo che tutto finisca presto. Abbiamo detto che però per raggiungere il record dei primati, il Guinness dei primati, devono arrivare fino alla mezzanotte. Secondo me ci arriveranno senza tanti problemi, Sergio. Quindi parlava appunto Conte di cifre cospicue, di risorse cospicue, però lo scontro fra le altre cose è appunto, dicevo, sia sulla diciamo le proporzioni tra sussidi, tra soldi a fondo perduto e prestiti, ma anche sulla cosiddetta governance, cioè l'Olanda, Rutte, il primo ministro Rutte, che fa parte veramente del cattivo, del malvagio in questa maratona negoziale, vorrebbe controllare di volta in volta, vuole che i paesi abbiano il diritto, la prerogativa di controllare come spendono i soldi i paesi che ricevono gli aiuti, no? Sì, anche qui alla fine, insomma, la proposta Michel, continuiamo a parlare di proposta, non diamo nulla per definitivo. Del Presidente del Consiglio europeo Michel, sì. Esatto, introduce quello che viene definito il super freno di emergenza, cioè sostanzialmente la Commissione europea valuta le proposte, dopodiché vengono portate al Comitato Economico Finanziario. Se lì qualche paese, uno o più paesi, ha delle obiezioni su come i piani nazionali di spesa, di rilancio post-pandemico, sui contenuti fondamentalmente, se le riforme chieste non vengono introdotte o se alcune spese non appaiono giustificate, beh, in questo caso questo paese potrebbe portare la questione o all'Ecofin o allo stesso Consiglio europeo, di fatto congelando gli esborsi. Questo sarebbe super freno di emergenza, cosiddetto. Teniamo presente anche che, come tutto il linguaggio brussellese o comunque comunitario, parli di iperboli? Si tratta di qualcosa di estremamente complicato che poi andrà visto di volta in volta come verrà poi esercitato in futuro, perché sulla carta chiaramente è aperto un po' a tutte le possibili interpretazioni. Sentiamolo però Conte anche su questo passaggio, sullo scontro sulla cosiddetta governance e i vari veti. Beh, su quello c'è stato, ormai lo sapete anche voi, uno scontro in questi giorni. Ho detto che assolutamente non permetterò mai che un singolo paese possa avere il monopolio o comunque la possibilità di un sistema di controllo e di verifica. Questo spetta agli organi comunitari e su questo io non mollo, non permetterò mai che avvenga questo. Allora Sergio, qui continua qualche ascoltatore col pessimismo, vediamo un po' che cosa dice questo ascoltatore, che non si firma mi sembra, dice: ma cospicue le risorse rispetto a cosa? Vi rendete conto che stiamo parlando di meno di 2.000 euro al cittadino per 7 anni? È meno di un euro al giorno, che tu che sai fare i calcoli, Sergio, che cosa dici? Diciamo che questi non sono soldi che devono essere dati ai cittadini come, diciamo, free money, sono soldi che vengono investiti in settori strategici, in settori specifici, cioè, sanità, attenzione, questi non sono dei regali, non ci si può tagliare l'IVA come cosa che ha fatto abbastanza inorridire i nordici. Qui bisogna in qualche modo usare questi soldi per migliorare la sanità, per migliorare la giustizia, la pubblica amministrazione, quindi per rilanciare, fare riforme, il paese nel suo, esatto, complesso, quindi cioè non vediamoli come dei cadeau, sono dei soldi che l'Europa ci dà, ci regala in parte per cambiare, per modernizzarci, trasformando una crisi in un'opportunità. Punto primo. Punto secondo, facciamo due considerazioni al volo. La prima: è evidente che questo Consiglio europeo mostra come il continuare a decidere all'unanimità sia qualcosa di vetusto, sorpassato, perché blocca sempre tutto quanto. Quindi c'è un problema ovviamente di democrazia interna all'interno del meccanismo decisionale europeo, ma non dimentichiamo, e su questo invito a riflettere tutti quanti, che fino a un mese fa, due mesi fa, era assolutamente tabù un debito comune, un embrione debito comune, come è nei fatti questo recovery fund. Quindi gli stessi, cioè, che tutti i paesi condividessero i debiti degli altri, insomma. Esatto. Poi è la commissione che va sui mercati a finanziarsi usando la sua AAA, eccetera eccetera, ma per l'Olanda, per l'Austria, per altri paesi del nord era una bestemmia tutto ciò. Quindi il fatto di aver accettato questo, di averlo ridotto, ma comunque di averlo accettato, è un grosso passo in avanti. E un'altra cosa, aveva detto un ascoltatore prima, se ricordo bene, su 7 anni o 10 anni. No, sì. Attenzione, questo recovery fund è fatto su un triennio, i primi 2 anni, si guarda sostanzialmente il PIL, una media dei PIL degli ultimi anni, sul terzo anno si guarda invece a come la pandemia, e parliamo del 2023, a come la pandemia ha inciso sul PIL e ha impoverito sostanzialmente il paese. Quindi sono soldi che vanno spesi anche rapidamente, vanno implementati. Cioè, altra cosa, non dimentichiamo che questi soldi, a meno di esborsi ponte, arriverebbero l'anno prossimo. Per quest'anno bisognerà valutare se usare o no il MES, che sono i famosi 36-37 miliardi. Però mi sembra che se ne sia parlato un po' poco, almeno Conte non ha fatto nessun accenno. Beh, diciamo che al MES, sapendo che divide, no, la maggioranza. Divide parecchio la maggioranza. In questo momento la maggioranza è abbastanza compatta e coesa a sostenere Conte, che è impegnato effettivamente in un negoziato molto complicato. Bisogna dire che si è mosso finora bene. in paesi mediterranei sono stati anche bravi a fare squadra con l'asse franco-tedesco, e come sono stati bravi anche i nordici a creare un fronte molto compatto e molto rigido. Che tra l'altro, Sergio, è pari, insomma, dicono alcuni commentatori, osservatori, che questa, non so se definirla spaccatura, insomma, tra paesi del sud, ma non solo, perché poi c'è anche la Germania di mezzo, e dall'altra questi paesi cosiddetti frugali, nordici, eccetera, questa spaccatura sia destinata un po' a rimanere, questa differenza, questa distanza, proprio di distanziamento che tanto abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. C'è chi dice che l'Olanda abbia preso il posto della Gran Bretagna al tavolo, diciamo, degli scettici. L'Olanda a breve avrà anche elezioni. Non dimentichiamo, c'è un altro fronte che noi italiani, a noi non interessa molto perché siamo in altre faccende affaccendati. C'è il fronte dell'est, e ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con te, Roberta. Sì. C'è un problema, è un qualcosa, e tra l'altro potrebbe ulteriormente rallentare stanotte le trattative. Ungheria in testa, tanto per dire, esatto. No, di Orban. Loro sostanzialmente non vogliono che si leghi gli sborsi pandemici, chiamiamoli così, il recovery fund, al rispetto dello Stato di diritto. E che... infatti sentiamo proprio questo passaggio di Conte, è una cosa molto importante, sentiamolo. Sullo Stato di diritto sono dei temi ovviamente su cui anche ci sono alcune clausole, le stiamo rivedendo dal punto di vista legale, ma sul principio del rispetto dello Stato di diritto mi sembra che non ci sia da discutere. Non ci sarebbe da discutere, Sergio, però mi pare che Ungheria e Polonia abbiano dei problemi di rispetto dei diritti civili, no? Però questo quindi come entra in questa trattativa, in questo negoziato? Entra che Orban minaccia, poiché si è fatto dare anche un mandato parlamentare, non è stato anche furbo, minaccia di far saltare il tavolo qualora si inserisse come condizionalità alle sborse per ricevere soldi. Di ricevere i soldi del Recovery Fund o anche dei programmi di coesione legati al bilancio settennale, il rispetto dello Stato di diritto. Allora, su questo l'Europa però non deve fare passi indietro, perché se si comincia a fare passi indietro sul rispetto dei principi base dello Stato di diritto, della democrazia, dell'indipendenza della magistratura, della libera stampa, cose che in Polonia e in Ungheria sono sotto attacco, non dimentichiamolo, e da anni, allora l'Europa vende la sua anima, quindi bisognerà stare molto attenti su questo stanotte a non fare passi indietro, anche presi per sfinimento dalla stanchezza. Appunto, qui c'è il rischio appunto che siano presi dallo sfinimento. C'è Leonardo che dice: sono ancora convinto europeista, ma in confronto con Cina, Stati Uniti eccetera, come Europa lascia molte perplessità. Io dico che rispetto alla Cina meglio comunque l'Europa, per gli Stati Uniti per certi versi anche, insomma. Conte poi sempre sulle condizionalità, quindi parlavi della questione del rispetto dei diritti civili, ma anche sul rispetto dell'ambiente. Sentiamo questo passaggio. Noi su questo siamo favorevoli, anche perché questo piano, non dobbiamo dimenticarlo, sussidi, prestiti che siano, sono tutti comunque orientati a realizzare più velocemente la transizione energetica, quella digitale, la svolta digitale, perché ovviamente si è chiamato prossime generazioni dell'Unione Europea, proprio perché dobbiamo favorire questa svolta verde, questa svolta digitale a favore delle nuove generazioni. Ecco, questo è l'altro aspetto importante, Sergio, no? Sì. È anche vero che se poi andiamo a vedere, perché già, insomma, molti colleghi, soprattutto della stampa che lavora a Bruxelles, stanno cominciando a leggere tra le righe questa proposta di compromesso, vediamo che ci sono però tagli nei settori che riguardano proprio la transizione ecologica. Si parla di 20 miliardi di tagli in questo caso, ci sono tagli anche nel piano europeo per la sanità che di fatto viene azzerato, e ci sono tagli anche nello sviluppo rurale, nei programmi di ricerca. Ipocrisia di fondo, quindi, insomma, diciamo. Diciamo che Michel, per far quadrare i conti, ha dovuto tagliare in settori che in teoria sarebbero prioritari, e questo forse, se anche si arrivasse a un accordo, tutto ciò sarebbe anche un po' una sconfitta, se vogliamo. Ecco. Sergio, leggo su questa agenzia che è arrivata in questi istanti. Dice: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto una battaglia enorme per il mantenimento dell'ammontare globale del Recovery Fund a 750 miliardi, mentre gli altri stavano accettando la riduzione a 700 da 750. Conte, in tutte le sue bilaterali, ha incessantemente insistito su una cifra che aveva un forte valore di risposta ai cittadini italiani e europei. Lo fanno sapere fonti italiane. Bene, su questo chiuderei, Sergio. Aggiornerai man mano nei giornali radio. Tu rimani qua a oltranza anche tu tutta la notte fino a domani mattina, nel caso? Beh, non vorrei battere il record del summit di Nizza e diciamo stabilire un mio personale record. Spero si chiudano presto, anche se sono un po' scettico purtroppo a riguardo. Incrociamo le dita. Grazie caro Sergio Nava. Grazie a voi, ciao. Ciao Sergio, buon lavoro. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, come Anna che dice: scusa Roberta, lavoro da casa, bene, dice, fa smart working, e talvolta non c'è orario, questo però non toglie che sei in sottofondo, mi dice giustamente, perché qualsiasi cosa stiate facendo, se ascoltate Effetto Notte lo fate meglio, questo è sicuro. Roberto Giordano naturalmente sempre con voi, abbiamo parlato ampiamente di questo maratona negoziale infinita che appunto ancora poche ore, tre ore potrebbe raggiungere il Guinness dei primati della trattativa europea più lunga di sempre dopo quella di inizio del 2000, questa la supererà quasi certamente, e anche dei possibili risultati, delle anticipazioni, delle indiscrezioni che man mano stanno arrivando. Adesso però, a proposito del ponte di Genova, sapete che è iniziato da un po' il conto alla rovescia in attesa della inaugurazione tanto aspettata, che dovrebbe avvenire in un giorno compreso tra l'1 e il 5 agosto, come ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, nonché sempre il sindaco di Genova anche commissario per la ricostruzione del ponte. Ieri è iniziato il collaudo con prove statiche sulla struttura, proseguito oggi, si calcola che per completare questo collaudo ci vorranno circa 6 giorni. Ieri è stato effettuato lo stress test, pensate che sono stati fatti salire sul nuovo ponte, sulla struttura, 56 auto articolati per un peso totale di circa 2.500 tonnellate. Però a pochi giorni dal varo del ponte si è innescata una polemica legata alle notizie di stampa secondo le quali ci sarebbe un limite di 70 km orari, quindi una velocità ridotta rispetto a quella consentita sul ponte Morandi. Una polemica rispetto a questo e sulla definizione del ponte come fuori norma. Il sindaco Bucci ha detto: mi aspetto le polemiche, ma almeno dovrebbe essere basate su fatti reali, e dire che il ponte è fuori norma è una falsità, ognuno deve prendersi le responsabilità di quello che afferma. Mentre il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha definito questa polemica una polemica della mediocrità. È vero presidente Toti? Bentornato qui a Effetto Notte. Buonasera. Sì, se vuole aggiungo anche che le polemiche, ovviamente non le persone mai, è una polemica idiota, mi sia consentito, nel momento in cui questo paese può per la prima volta, credo, negli ultimi anni festeggiare e anche rinvigorirsi da un'opera che è stata realizzata, costruita non solo in modo straordinariamente bello da Renzo Piano, da grandi campioni dell'industria nazionale, Fincantieri, Italfer, Salini in Pregiro, ma un'opera costruita in meno di 2 anni, se si inaugurerà come si inaugurerà prima del 4 agosto, non saranno passati 2 anni dal suo tragico crollo. Io credo che fare polemica sul fatto che il ponte abbia seguito il vecchio tracciato, per quanto debba entrare con un'inclinazione già decisa dentro delle gallerie che già ci sono, e non si è scelto invece di far durare quel cantiere un decennio rifacendo le gallerie, che peraltro esistono su un tratto autostradale e metropolitana, quindi con divieti e limiti di circolazione assai diffusi. Ci sono aree di Genova dove si va a 60, 70, 80, fin da Bolzaneto, ma anche prima, da Busalla scendendo. Non capisco francamente perché qualcuno possa puntare il dito verso questa polemica, che è qualcosa di squalificante per il sistema, oltre che essere falsa nella sostanza. Perché qualcuno, Toti, dice che in realtà questa cosa che era sfuggita al momento, quello di adeguarlo alle nuove normative, cioè le curve, i rettilinei, eccetera, venne autodenunciato da Italfer, che ha contribuito alla costruzione già a febbraio 2019, che però il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in realtà poi non aveva preso posizione. No, ma guardi, in realtà non è stata una svista, è stata una scelta. Capisco che per una parte della politica italiana scegliere sia qualche cosa che assomiglia alla bestemmia, e per questo ho detto la mediocrità. Magari si poteva discutere 3 anni se era il caso di cambiarne il tracciato o tenere il tracciato uguale. Poi, una volta che si è discusso 3 anni se tenere il tracciato o cambiarlo, discutere altri 3 anni se modificare le gallerie, se modificare la legge. Si è deciso semplicemente di fare la cosa più sensata, di ridare a Genova un ponte transitabile che ha in un suo pezzo un limite dei 70. Io ricordo dei periodi della mia vita in cui sul ponte Morandi c'era un limite dei 60 dovuto a lavori in corso, a situazioni di carico, e si è deciso di utilizzare le 2 gallerie già esistenti di un tracciato di autostrada che corre dentro le case a Voltri, a Pra, dentro la città, e quindi ha già dei limiti di velocità imposti. Tenga anche presente che quel tratto di autostrada dovrebbe diventare viabilità metropolitana per la costruzione della gronda. Adesso, domani sarà a Genova il ministro De Micheli per inaugurare un cantiere che riparte dopo molti anni, grazie a un decreto per la verità del governo precedente. Benissimo, applausi, perché quando riparte un cantiere io sono sempre felice. Vorrei capire che fine ha fatto la gronda, perché se si fa la gronda autostradale, il tratto di autostrada del Ponte Morandi diventa viabilità metropolitana. Quindi, invece di fare polemica su i 70 all'ora, che mi sembrano una velocità accettabile su un ponte interno a una città, vorrei capire per quale ragione non si fa polemica del fatto che invece di firmare un progetto esecutivo già pronto sul tavolo del ministro, si inserisce la gronda nelle futuribili opere strategiche del paese in un futuribile decreto semplificazioni. E questa è la cosa che francamente è un po' di stucchevole in tutta questa polemica. Toti, comunque per l'ufficialità dei nuovi limiti bisogna attendere i collaudi di agibilità, no? Quindi ancora qualche giorno per capire poi effettivamente quali saranno questi limiti, arriveranno indicazioni dall'ANAS? Assolutamente sì, ma insomma diamoli per scontati, facciamo così, diciamo che ci sarà in quella curva prima dell'ingresso della galleria di Ponente il limite dei 70, ci sono molti limiti dei 60, molti limiti degli 80 sulle autostrade della Liguria. Per la verità in questo momento c'è il limite della coda, perché le autostrade della Liguria, come è noto, per un piano folle del Ministero delle Infrastrutture vengono in qualche modo ispezionate senza una classificazione di rischio, tutte insieme, tutte ora, tutta la partenza della stagione turistica e tutta la partenza della ripresa. Capite che da alcune persone che avallano questo piano sentirmi dire che i 70 km all'ora in una curva del Ponte Morandi sono qualche cosa che poteva essere evitato o quantomeno discusso è qualcosa che mi fa cadere. Mi do i pizzicotti per sentire se sono sveglio, perdonatemi, vista la situazione generale. Chiaro Toti. Senta, c'è un ascoltatore, forse la vuole provocare, non so, dice Toti potrebbe ringraziare anche Toninelli, no? Lei è grato a Toninelli per la costruzione del nuovo ponte? Ma guardi, io ringrazio tutti, quando le cose funzionano è merito di tutti, e io non ho mai fatto polemiche strumentali nei confronti del ministro Toninelli, da cui credo mi divida tutto, dalla concezione della vita alla politica, a tutto quello che passa davanti al mondo. Ma dopodiché la firma sul decreto Genova è stata di Toninelli, del mio amico Edoardo Rixi, che all'epoca era vice ministro delle infrastrutture della a Genova, del presidente Conte in prefettura a Genova quel 14 maggio. Una cosa corale, quindi. Meno male. Senta, per chiudere, presidente Toti, ha sentito la buona notizia del fatto che è stato raggiunto un accordo della conferenza delle regioni col governo sulle minori entrate, quindi ulteriori... Sì, assolutamente. Ecco, si parla, Misiani, vice ministro dell'economia, ha parlato di ulteriori 2,8 miliardi alle regioni per il calo delle entrate dovute al Covid. Beh, non sono esattamente così, un pezzo sono per le regioni a statuto speciale che, come sapete, hanno una riduzione della propria fiscalità dovuta al calo del PIL, e quindi su quello è una voce a parte. Poi c'è un parziale ristorno di spese pure delle regioni italiane, che altrimenti non avrebbero più potuto erogare servizi che erogano per conto dello Stato. Penso ai servizi pubblici essenziali, penso al trasporto pubblico, penso a tutto il sociale, penso ai LEA, penso ai diritti allo studio. Quindi da questo punto di vista credo che fosse un atto dovuto, mi sia consentito, nel momento in cui lo Stato aumenta l'indebitamento di una sessantina di miliardi di euro, il fatto di negoziarlo con le regioni, dal momento che gli equilibri di bilancio sono anche molto spesso frutto dei sacrifici degli enti locali. Bene, comunque grazie. Bene. Sì, bene, comunque bene. Va bene. Grazie presidente Giovanni Toti, buon lavoro, buona inaugurazione. Speriamo presto. Grazie, buona serata. E c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E Roberto Giordano vi dà anche questa notizia. Nella proposta di Recovery Fund, ancora anticipazioni, presentata da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, sempre in questa trattativa infinita a Bruxelles, all'Italia aspetterebbero in totale 208 miliardi, di cui 81,4 miliardi di sussidi, quindi a fondo perduto, 127,4 miliardi di prestiti. Ma adesso passiamo alle nuove regole stabilite dal Vaticano in materia di messe e sacramenti. La messa e i sacramenti non possono, ve lo dico in sintesi, comportare un prezzo da pagare o una tassa da esigere da parte dei parroci, della Chiesa, eccetera, e la carenza di sacerdoti dovrà portare in via eccezionale a far celebrare alcuni sacramenti anche ai laici. Tutto questo è contenuto in un'istruzione in cui il Vaticano ridefinisce il ruolo delle parrocchie. Ovviamente ne voglio parlare con il nostro vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Caro, ciao Carlo. Ciao Roberta, ciao. Sì, questa è la cosa di oggi. In realtà queste sono norme che già esistevano, c'è una, diciamo così, una revisione legislativa, ma siccome c'era il caos fondamentalmente, quasi ogni diocesi, ogni vescovo, ogni parroco ormai faceva un po' come gli pareva, forse anche a fin di bene, e allora è stato rimesso, diciamo, fatto un testo unico, si direbbe, in legislazione italiana per rimettere in riga le regole. Quindi la prima che hai detto è nessun tariffario, che non si dice le messe a una, o un battesimo o una cresima o un matrimonio a un tariffario. Questo no, è gratis, chi vuole fare l'offerta la fa, in realtà molto è già così, ma molti magari chiedevano delle cifre, soprattutto le chiese del centro dove tutti vogliono sposarsi, ci sono delle chiese... Quindi non si può pretendere, non si può pretendere. Non si può pretendere, non si può pretendere niente, questa è la prima cosa che forse era quella più... E poi l'altra cosa, la seconda cosa, poi passiamo, sono i beni sono al servizio dei poveri, non del parroco, questo è il succo, per cui il parroco, perché ci sono tanti parroci bravi, ma altri magari che sono parrocchie ricche, ecco, diciamo così, si erano presi qualche libertà, questo secondo il Papa e secondo altri. Terzo punto, che hai citato bene nella tua sintesi, è il ruolo dei laici, che è molto alto, sempre più alto, in funzione anche dell'assenza di preti, quindi di vocazioni. Questo è un tema che già ne parlammo in tuoi collegamenti molto tempo fa, quando l'Amazzonia, quando i luoghi dove non ci sono preti, questo non è una inizio di fine del celibato, questo no, il Papa lo ha chiarito, l'ho ridetto e anche oggi è tra le righe. I laici potranno fare delle cose, quindi celebrare matrimoni, per esempio? Celebrare i matrimoni devono essere autorizzati dal vescovo in una situazione molto precisa, dove non c'è un prete, e possono celebrare matrimonio, però per esempio non possono consacrare l'ostia, non possono dire la predica. Però una cosa, Carlo, ma i laici intendono sia donne che uomini possono celebrare un matrimonio, quindi? Allora, qui la cosa, sì, in teoria sì, perché non è specificato, perché si parla di diaconi, i diaconi sono sia donne che uomini fondamentalmente, quindi perché anche donne hanno degli incarichi, sono anche donne consacrate, come suore, cioè ci sono forme di consacrazione di laici che sono più attenuate, per cui laici che hanno preso dei voti ma non sono ancora preti, o hanno preso dei voti ma non sono ancora suore vere e proprie, ora lo sto dicendo non proprio in diritto canonico, ma questo è il senso, queste sono le categorie, diciamo, interessate, o alcuni laici molto molto, diciamo così, considerati, fedeli, bravi, eccetera, i viri provati, in latino si dice così, che sono, diciamo così, interni al giro della parrocchia, che vengono incaricati di queste, sono i battesimi, i matrimoni e i funerali, sono questi tre sacramenti, però ripeto sempre, non è che dicono messa, non sono viceparroci o sottoparroci, sono laici che possono somministrare i sacramenti. Chiariamoci, la Chiesa già prevede questo, il famoso caso del padre che somministra il battesimo al bambino che cresce di vita appena nato, questo è un caso che è sempre esistito, quindi non è una cosa nuovissima, oppure il Concilio Vaticano II che aprì ai laici. Però oggi è stato messo in riga quali sono i temi principali. Questo però è importante anche perché le chiese, come ci ricordiamo, dopo il lockdown riaprirono con molta difficoltà e furono fissate delle regole. Secondo me è un po' in quel senso, le nuove regole che... Un rifare il punto, insomma, un po'. Senti, so che domani, dovrebbe essere domani sul Sole 24 Ore, o parte domani un tuo pezzo sulle finanze vaticane, insomma, sono sempre oggetto, sì, domani, diciamo... grazie di ricordarlo, grazie ai colleghi del Sole 24 Ore. Sì, c'è un'inchiesta sulle finanze vaticane che ho fatto nella seconda puntata di una prima che feci qualche tempo fa, esce domani e quindi chi la vuole leggere non lo perdete, sono sempre di grande interesse. Questo ed altro sul Sole 24 Ore con Carlo Marroni. Grazie caro Carlo, vedevo, ma qui ci dobbiamo lasciare, un parroco nei giorni scorsi ha sposato civilmente due donne su delega del sindaco, è successo a Sant'Oreste del Viterbese, poi si è dovuto dimettere, si è spinto un po' più in là, diciamo, di queste regole. Grazie Carlo Marroni e buon pezzo per domani. A domani. Ciao, grazie. Ciao, caro Carlo. Invece Giovanni Capuano adesso, caro Giovanni, eccomi. Ciao, ci dice, Roberto, buonasera. Ciao caro, ci racconta di questi 10 minuti di partita, da che è iniziata la partita Juventus-Lazio? Giovanni, come sta andando? Sì, 9 minuti, partita che è iniziata su ritmi molto bassi, con squadre molto controllate. C'è stato un tentativo di Cristiano Ronaldo da fuori qualche istante fa, palla però che si è persa abbondantemente sul fondo. Inizio molto controllato perché sono due squadre che si temono. Ricordiamo che la Lazio ha già inflitto 2 sconfitte in questa stagione alla Juventus, una in campionato e una in Supercoppa. Juventus che questa sera ha di fatto il primo match point per il campionato grazie ai pareggi di Inter e Atalanta nel corso del fine settimana. Dovesse vincere, la Juventus si porterebbe a +8 sull'Inter e di fatto sigillerebbe il discorso scudetto. Gioca Cristiano Ronaldo, che abbiamo già citato, gioca nella linea d'attacco insieme a Douglas Costa e Higuain, con Dybala che va in panchina. La Juventus ha recuperato De Ligt e Bonucci, che erano in forse ieri, invece sono regolarmente al centro della difesa. Ha recuperato anche Bentancur, mentre gli assenti sono un problema per la Lazio, che ha praticamente mezza rosa fuori, ha tanti giocatori fuori condizione, e questo è uno dei motivi per cui la formazione di Inzaghi ha fatto un punto nelle ultime 4 partite. Davanti ci sono Immobile e Caicedo. Immobile gioca anche la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo per il titolo di capocannoniere, e insomma questa è una un incrocio che da questo punto di vista può rivelarsi decisivo. Fin qui non si è visto molto, ma questa è una partita che promette tanto, Roberta, perché in ogni caso alla Juventus conviene provare a chiudere stasera il discorso scudetto per poi pensare alla Champions League. Bene, allora buona partita, buon divertimento a Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, grazie. Ciao, grazie. Ci sentiamo alle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.